Emma. 25esima traccia. Ci doveva dunque essere un pranzo. Dopo che Emma ne ebbe parlato per 10 minuti, Mr. Woodhouse non sentì alcuna avversione e solo fece il consueto patto di non sedere lui stesso all'altro capo della tavola, con la consueta immancabile difficoltà di decidere chi avrebbe dovuto farlo per lui. Quanto alle persone che dovevano essere invitate, c'era da pensarci poco. Oltre agli Elton, dovevano esserci i Weston e Mr. Knightley. Fin qui la cosa andava da sé. E non meno inevitabile era che fosse invitata la povera Harriet come ottava. Ma questo invito non fu fatto con egual soddisfazione e per molte ragioni Emma rimase assai contenta che Harriet pregasse di aver licenza di declinarlo. Harriet avrebbe preferito di non essere in compagnia di lui se poteva esimersi. Non era ancora in grado di vedere lui e la sua affascinante e felice moglie insieme senza sentirsi a disagio. Se non dispiaceva a Miss Woodhouse, avrebbe preferito di rimanere a casa. Era proprio ciò che Emma avrebbe desiderato, se l'avesse creduto possibile abbastanza da desiderarlo. Rimase incantato della fortezza della sua piccola amica, poiché sapeva che per lei era fortezza rinunziare a essere in compagnia e starsene a casa. E così poteva ora invitare proprio la persona che essa voleva per fare 8, Jane Fairfax. Dopo l'ultima sua conversazione con Mrs. Weston e Mr. Knightley, sentiva la coscienza rimorderla più del solito a proposito di Jane Fairfax. Le erano rimaste impresse le parole di Mr. Knightley. Egli aveva detto che Jane Fairfax riceveva da Mrs. Elton attenzioni che nessun altro le tributava. Questo è verissimo, rifletteva, almeno per quel che riguarda me. Ed era quanto egli voleva significare, ed è una vergogna. Della stessa età e avendola conosciuta sempre, avrei dovuto esserle più amica. Adesso non le riuscirò più simpatica, l'ho trascurata troppo a lungo, ma le mostrerò più attenzione di quanto io non abbia fatto. Tutti gli inviti ebbero successo. Tutti erano liberi e tutti lieti. Tuttavia non si esaurì in ciò l'interesse dei preparativi di questo pranzo. Capitò una circostanza piuttosto sfortunata. I due bambini maggiori Knightley erano impegnati a fare al nonno e alla zia una visita di alcune settimane nella primavera. E adesso il loro babbo propose di condurli e di rimanere un'intera giornata a Hartfield, e proprio questo era il giorno del pranzo. I suoi impegni professionali non permettevano di cambiargli la data, ma sia il padre che la figlia rimasero disturbati da questo contrattempo. Mr. Woodhouse considerava 8 persone insieme a pranzo come il massimo che i suoi nervi potevano tollerare. E ora ce ne sarebbe stata una nona. Ed Emma temeva che sarebbe stata una nona molto contrariata di non riuscire a venire a Hartfield neanche per 48 ore senza incappare in un pranzo con invitati. Emma riuscì a confortare suo padre meglio che se stessa, facendo presente che sebbene John Knightley certamente avrebbe portato il numero a 9, tuttavia di solito diceva così poco che l'aumento di rumore sarebbe stato insignificante. In realtà, essa pensò che triste scambio era per lei avere di faccia, invece del fratello, lui con il suo aspetto grave e la sua riluttante conversazione. La sorte favorì Mr. Woodhouse più di Emma. Venne John Knightley, ma Mr. Weston fu inaspettatamente chiamato a Londra e doveva rimanere assente proprio quel giorno. Forse sarebbe potuto venire la sera, ma certo non per pranzo. Mr. Woodhouse provò un senso di sollievo Il vederlo così, insieme con l'arrivo dei ragazzi e la filosofica rassegnazione del cognato nell'udire la sua sorte, allontanò perfino la principale preoccupazione di Emma. Venne il giorno, i convitati si trovarono puntualmente e Mr. John Knightley parve dapprima dedicarsi al compito di riuscir gradevole. Invece di tirar da parte il fratello a una finestra mentre aspettavano che il pranzo fosse servito, si mise a parlare con Miss Fairfax. Guardò in silenzio Mrs. Elton, tanto elegante quanto potevano renderla merletti e perle, desiderando solo di osservare abbastanza per poterne riferire a Isabella, ma Miss Fairfax era una vecchia conoscenza e una ragazza tranquilla, e a lei egli poteva parlare. L'aveva incontrata prima di colazione, mentre egli tornava da una passeggiata coi ragazzi, quando aveva cominciato a piovere. Era naturale nutrire alcune cortesi speranze al riguardo, sicché egli disse: «Spero che stamattina non vi siate avventurata lontano, Miss Fairfax, o son certa che dovete esservi bagnata. Noi siamo arrivati a casa appena in tempo. Spero che siate tornata subito sui vostri passi». «Mi sono recata solo all'ufficio postale», disse lei, «e sono giunta a casa prima che la pioggia fosse fitta. È la mia commissione d'ogni giorno. Quando sono qui vado sempre io a prendere le lettere. Risparmia fatica e serve a farmi prendere una boccata d'aria. Una passeggiata prima di colazione mi fa bene». «Non però una passeggiata sotto la pioggia, direi». «No, ma non pioveva affatto quando mi son mossa». Mr. John Knightley sorrise e rispose: «Cioè, avete deciso di fare la vostra passeggiata perché non avevate fatto 6 metri dalla vostra porta di casa quando ho avuto il piacere di incontrarvi». E già da un pezzo Henry e John avevano visto più gocce di quante ne potessero contare. «L'ufficio postale ha un gran fascino in un certo periodo della nostra vita. Quando avrete i miei anni, comincerete a pensare che le lettere non valgono mai la pena di andarle a cercare sotto la pioggia». Kane arrossì un poco, quindi rispose: «Non devo sperare di godere mai della vostra situazione, in mezzo ai cari parenti, e perciò non posso attendermi che mi basti di invecchiare per diventare indifferente alle lettere». «Indifferente o no, non intendevo dire che sareste diventata indifferente. Le lettere non lasciano indifferenti. Di solito sono una maledizione positiva». «Voi parlate di lettere di affari. Le mie sono lettere d'amicizia». «Spesso ho pensato che proprio codeste fossero le peggiori», egli rispose imperturbabile. «Gli affari, sapete, possono recar denaro, ma l'amicizia non ne reca mai». «Via, adesso non dite sul serio. Conosco troppo bene Mr. John Knightley. Sono sicurissima che egli apprezza quant'altri mai il valore dell'amicizia. Non stento a credere che le lettere significhino poco per voi, molto meno che per me, ma non è il fatto d'essere 10 anni più anziano di me che crea la differenza. Non è l'età, ma la situazione. Voi avete i vostri cari sempre più a portata di mano. Io, probabilmente, non li avrò di nuovo mai più. E perciò, finché io non sia divenuto insensibile a tutti i miei affetti, un ufficio postale, credo, avrà sempre il potere di farmi uscire di casa anche con un tempo più cattivo di oggi». «Quando dicevo che vi sareste cambiata col tempo, nel corso degli anni», disse John Knightley, «volevo sottintendere il mutamento di situazione che di solito il tempo reca. Ritenevo che una cosa implicasse l'altra. Il tempo suole diminuire l'interesse ed ogni attaccamento al di là della cerchia quotidiana, ma questo non è il genere di cambiamento che io prevedevo per voi. Da quel vecchio amico che sono, mi permettete di sperare, Miss Fairfax, che di qui a 10 anni voi possiate avere altrettanti oggetti d'affezione concentrati quanti ne ho io». Ciò fu detto benevolmente e senz'ombra di voler recare affronto. Un affabile grazie pareva inteso a passarci sopra ridendo. Ma un rossore, il tremolare del labbro, una lacrima sul ciglio, mostravano che provocava un sentimento di tutt'altro che riso. A questo punto l'attenzione di Jane fu richiesta da Mr. Woodhouse, che, secondo la sua abitudine in tali occasioni, faceva il giro dei suoi ospiti e, presentando i suoi speciali omaggi alle signore, terminava con lei e con la sua più blanda affabilità diceva: «Mi dispiace assai di sentire, Miss Fairfax, che stamattina eravate fuori con la pioggia. Le signorine dovrebbero riguardarsi. Le signorine sono piante delicate. Dovrebbero aver cura della loro salute e della loro carnagione. Mia cara, vi siete cambiata le calze?» «Ma certo, signore, vi sono molto grata per la vostra gentile premura nei miei riguardi.» «Mia cara Miss Fairfax, le signorine sono sicure di avere chi badi alla loro salute. Spero che la vostra buona nonna e la vostra zia stiano bene. Sono tra le mie più vecchie amiche. Magari la mia salute mi permettesse d'essere un vicino migliore. Voi ci fate oggi un grande onore, davvero. Mia figlia ed io siamo entrambi molto commossi della vostra bontà e proviamo la più grande soddisfazione di vedervi a Harfield.» Indi il buono e cortese vecchio poté sedersi con la convinzione di aver fatto il proprio dovere e di aver dato il suo benvenuto a tutte le belle signore, facendo che si sentissero come a casa propria. Intanto la faccenda della passeggiata nella pioggia era giunta all'orecchio di Mrs. Elton, ed ecco che essa aprì su Jane il fuoco di fila delle sue rimostranze. «Mia cara Jane, che cosa sento? Andare all'ufficio postale con la pioggia? Ciò non deve accadere, davvero, ragazzaccia. Come avete potuto far questo? È segno che non c'ero là io a prendermi cura di voi.» Jane, molto pazientemente, l'assicurò che non si era presa un'infreddatura. «Oh, non ditelo a me, davvero siete una ragazzaccia e non sapete riguardarvi. Già, proprio all'ufficio postale. Mrs. Weston, avete mai sentito cosa simile? Voi ed io dobbiamo far valere sul serio la nostra autorità.» «Il mio consiglio», disse Mrs. Weston con tono cortese e persuasivo, «certo mi sento tentata di darlo. Miss Fairfax, certo, non dovete correre di questi rischi. Soggette come siete a gravi infreddature, davvero dovreste riguardarvi in modo speciale, soprattutto di questa stagione. Ho sempre pensato che la primavera richieda precauzioni straordinarie. È meglio aspettare un'ora o due, o perfino mezza giornata, una lettera, piuttosto che correre il rischio di riprendervi la tosse. Non credete che sia meglio così?» «Sì, sono sicura che siete troppo ragionevole per pensarla diversamente. Non avete l'aria di volerlo far più.» «Oh, non dovrà più farlo», interloquì con veemenza Mrs. Elton. «Non le permetteremo di farlo di nuovo.» E, con un cenno significativo del capo, «bisogna concertare qualcosa, sicuro. Ne parlerò a Mr. Elton. L'uomo che va a pigliare le nostre lettere ogni mattina, uno dei nostri servitori, non ricordo il suo nome, chiederà pure le vostre e ve le porterà. Così saranno eliminate tutte le difficoltà, sapete. E da noi, io credo davvero, mia cara Jane, che non vi farete scrupolo d'accettare un'offerta così conveniente.» «Siete estremamente gentile», disse Jane, «ma io non posso rinunziare alla mia passeggiata quotidiana. Mi si consiglia di stare all'aria aperta quanto posso. Devo fare una passeggiata da qualche parte e l'ufficio postale è una meta. E, parola d'onore, non mi è mai capitato prima d'avere una mattina cattiva.» «Mia cara Jane, non dite una parola di più. La cosa è decisa.» «Cioè», con un riso affettato, «per quanto io possa presumere di decidere a alcunché senza il concorso del mio signore e padrone. Sapete, Mrs. Weston, Voi ed io dobbiamo stare attenti a come parliamo. Ma io mi lusingo, mia cara Jane, che la mia influenza non sia del tutto cessata. Perciò, se non incontro difficoltà insormontabili, considerate codesto punto come deciso. Scusatemi, disse Jane con calore, non posso assolutamente acconsentire a tale combinazione, così inutilmente onerosa per il vostro servo. Se la commissione non rappresentasse per me un piacere, potrebbe essere fatta, come lo è sempre quando io non sono qui, dalla domestica di mia nonna. Oh, mia cara, ma la Patti ha tanto da fare, ed è una cortesia impiegare i nostri uomini. Jane non aveva l'aria di volerci lasciar vincere, ma invece di rispondere cominciò di nuovo a parlare con Mr. John Knightley. L'ufficio postale è un'istituzione meravigliosa, disse. Che regolarità e rapidità! Se uno pensa a tutto quel che esso deve fare e a tutto quel che fa così bene, veramente c'è da restarne stupiti. Certo, è amministrato molto bene. Così di rado si verifica qualche negligenza o errore. Così di rado capita il disguido d'una lettera tra le migliaia che costantemente circolano nel regno e non se ne perde uno in un milione, immagino. E quando si considera la varietà di calligrafie, e anche di pessime calligrafie, che debbono decifrarsi, la meraviglia aumenta. Gli impiegati diventano esperti con l'abitudine, devono cominciare con qualche prontezza di vista e di mano, e l'esercizio li migliora. Se poi desiderate ulteriori schiarimenti, continuò sorridendo, essi sono pagati per il loro lavoro. Codesta è la chiave di molte abilità. Il pubblico paga e deve essere servito bene. Indi parlarono delle varietà delle calligrafie e furono fatte le solite osservazioni. Ho sentito asserire, disse John Knightley, che spesso in una famiglia domina lo stesso genere di scrittura. E dove c'è stato lo stesso maestro, la cosa è abbastanza naturale. A parte questa ragione, supporrei che la somiglianza deve essere soprattutto limitata alle donne, perché i ragazzi ricevono ben poco insegnamento dopo i primi anni e si arrangiano con qualsiasi genere di scrittura possono ottenere. Isabella ed Emma, credo, scrivono in maniera molto simile. Non sempre mi è riuscito di distinguere le loro calligrafie. Sì, disse esitando suo fratello, c'è somiglianza. Capisco quel che vuoi dire, ma la scrittura di Emma è più robusta. Isabella ed Emma hanno entrambe una bella calligrafia, disse Mr. Woodhouse, e sempre l'hanno avuta. E così pure la povera Mrs. Weston, con mezzo sospiro e mezzo sorriso a lei rivolto. Non ho veduto mai calligrafia d'uomo, cominciò Emma, guardando anche Mrs. Weston, ma si fermò accorgendosi che Mrs. Weston faceva attenzione a un'altra persona, e la pausa le diede il tempo di riflettere. E adesso come faccio a introdurlo? Non ce la fo a pronunziare subito il suo nome dinanzi a tutta questa gente. È necessario che io ricorra a una circonlocuzione. Il vostro amico dello Yorkshire, il vostro corrispondente dello Yorkshire. Questo sarebbe il modo, suppongo, se avessi proprio una cotta. No, posso pronunciare il suo nome senza la minima pena. Certo, vado continuamente migliorando. Su via dunque. Mrs. Weston non era più impegnata ed Emma ricominciò. Mr. Frank Churchill ha una delle più belle calligrafie maschili che io abbia veduto. Io non l'ammiro, fece Mr. Knightley. È troppo piccina, manca di forza. Pare la scrittura d'una donna. Nessuna delle due donne si inchinò a questo giudizio. Lo difesero contro la vile calunnia. Ma che? Non mancava affatto di forza. Non era una scrittura grande, ma era molto chiara e certamente forte. Non aveva Mrs. Weston indosso una lettera da poter mostrare? No, aveva ricevuto sue notizie proprio da poco, ma avendo risposto alla lettera l'aveva messa via. «Se fossimo nell'altra stanza», disse Sam, «se io avessi il mio scrittoio, potrei certo mostrare un saggio. Ho un suo biglietto. Non vi ricordate, Mrs. Weston, d'averlo impiegato a scrivere al vostro posto un giorno?» Gli piacque di dire così. «Ebbene, via, io ho quel biglietto e posso mostrarlo dopo pranzo per convincere Mr. Knightley. Oh, quando un giovanotto galante come Mr. Frank Churchill», disse asciutto Mr. Knightley, «scrive a una bella signora come Miss Woodhouse, naturalmente farà del suo meglio». Il pranzo era servito. Mrs. Elton, prima che le fosse rivolta la parola, era pronta. E prima che Mr. Woodhouse l'avesse raggiunta con la sua richiesta che gli fosse consentito di accompagnarla alla sala da pranzo, essa diceva: «Devo andare prima? Davvero mi vergogno di essere sempre in testa». Lo zelo di Jane circa l'andare a prendere la sua posta non era sfuggito a Emma. Aveva udito e veduto tutto, e provava alquanta curiosità di sapere se la passeggiata di quella mattina sotto la pioggia aveva fruttato qualche lettera. Sospettava di sì, che non sarebbe stata affrontata così risolutamente se non nella fiduciosa aspettativa di ricevere notizie da qualcuno di molto caro, e che non era stato invano. Le parve di scorgere un'aria di maggior letizia del solito, un calore del colorito e dello spirito. Avrebbe potuto fare una domanda o due circa la rapidità e la spesa della posta per l'Irlanda. L'aveva sulla punta della lingua, ma si trattenne. Era assolutamente decisa a non pronunziare una parola che potesse urtare i sentimenti di Jane Fairfax. Ed esse seguirono le altre signore che uscivano dalla stanza, sotto braccio, con un'aria di benevolenza che andava a pennello alla bellezza e alla grazia di entrambe. Quando le signore tornarono nel salotto dopo il pranzo, Emma vide che non era possibile evitare che si dividessero in due gruppi. Tant'era la perseveranza nel giudicare e nel comportarsi male che Mrs. Elton mise nel monopolizzare Jane Fairfax e nel far poco caso a lei. Emma e Mrs. Weston furono obbligate a rimanere sempre o a parlare o a star zitte insieme. Mrs. Elton non lasciava loro altra alternativa. Se Jane la reprimeva per un po', quella presto ricominciava da capo. E sebbene la loro conversazione fosse sottovoce, specialmente da parte di Mrs. Elton, non si poteva evitare di apprendere i loro temi principali. L'ufficio postale, il pigliare infrettature, andare a ritirare lettere e l'amicizia furono discussi per un pezzo, e a questi fece seguito un altro tema che doveva essere almeno altrettanto spiacevole per Jane. Domande se essa avesse già udito di qualche situazione conveniente o dichiarazioni da parte di Mrs. Elton circa la sua progettata attività in favore di Jane. «Eccoci ad aprile», disse. «Comincio a preoccuparmi per voi. Presto sarà giugno». «Ma io non mi sono mai fissata su giugno o su un altro mese, solo aspettavo l'estate in genere». «Ma proprio non avete sentito di nulla?» «Non ho fatto neanche ricerche, non desidero di farne ancora». «Oh, mia cara, non possiamo dire che sia mai troppo presto per cominciare. Voi non vi rendete conto della difficoltà di procurarsi esattamente quel che si desidera». «Io non me ne rendo conto», disse Jane, scuotendo il capo. «Cara Mrs. Elton, chi può averci pensato quanto me? Ma non avete visto tanto mondo quanto ne ho visto io. Voi non sapete quanti candidati ci sono sempre per i posti di prim'ordine. Ne so qualcosa da quel che ho visto intorno a Maple Grove. Una cugina di Mrs. Suckling, Mrs. Brage, ebbe una tal moltitudine di offerte. Ognuna non chiedeva altro che di entrare nella sua famiglia, poiché essa appartiene alle più alte sfere. candele di cera nella stanza dove i bambini hanno le loro lezioni. Immaginatevi com'è desiderabile. Di tutte le case del regno, la casa di Mrs. Brage è quella in cui mi piacerebbe più di vedervi. Il colonnello e Mrs. Campbell torneranno a Londra in estate, disse Jane. Debbo passare un po' di tempo con loro. Sono sicura che lo vorranno. Dopo, probabilmente, sarò lieta di sistemarmi. Ma non vorrei che voi vi deste il disturbo di fare ricerche per il momento. Disturbo? Conosco i vostri scrupoli. Avete paura di recarmi disturbo. Ma vi assicuro, mia cara Jane, che i Campbell non possono interessarsi a voi più di me. Scriverò a Mrs. Partridge tra un giorno o due e le darò il preciso incarico di star sull'avviso per qualunque posto desiderabile. Grazie, ma preferirei che non le accennaste della cosa. Finché non è il momento, non desidero di dar disturbo ad alcuno. Ma, mia cara ragazza, si avvicina il momento. Siamo ad aprile e giugno, o magari luglio è assai vicino, e ci rimane ancora da sistemare una faccenda come questa. La vostra inesperienza davvero mi diverte. Un posto come voi meritate e quale i vostri amici vorrebbero per voi non capita ogni giorno, non si ottiene in 448. Sul serio, dobbiamo cominciare le nostre ricerche senza indugio. Scusate, signora, ma tale non è affatto la mia intenzione. Non faccio ricerche io, e mi dispiacerebbe che ne fossero fatte dai miei amici. Quando avrò proprio deciso il momento, non ho affatto paura di restare a lungo senza impiego. Ci sono posti a Londra, agenzie, rivolgendosi alle quali qualcosa ne verrebbe presto fuori. Agenzie per la vendita, non addirittura di carne umana, ma di intelletto umano. Oh, mia cara, carne umana, mi scandalizzate. Se intendete lanciare una frecciata alla tratta degli schiavi, vi assicuro che Mr. Suckling è stato sempre piuttosto favorevole all'abolizione. Non alludevo, non pensavo affatto alla tratta degli schiavi, rispose Jane. La tratta delle governanti, vi assicuro, era tutto ciò a cui pensavo. Certamente una cosa del tutto diversa quanto alla colpa di coloro che la praticano, ma quanto all'infelicità delle vittime, dove sia maggiore, io non so. Ma voglio dir solo che ci sono agenzie di collocamento e che, rivolgendomi ad esse, non dubito che presto troverei qualcosa d'accettabile. Qualcosa d'accettabile, ripeté Mrs. Elton. Già, questo potrà convenire all'umile idea che vi fate di voi stessa. Io so che creatura modesta siete, ma non soddisferà i vostri amici vedervi accettare qualunque cosa possa presentarsi, qualunque situazione inferiore, comune, in una famiglia che non si muove in certe sfere o che non possa permettersi le eleganze della vita. Siete molto cortese, ma quanto a tutto ciò mi sento assai indifferente. Non mi proporrei per fine di stare coi ricchi. Le mie fortificazioni, credo, non ne sarebbero che accresciute. Soffrirei di più per contrasto. Una famiglia distinta è l'unica condizione che io porrei. Vi conosco, vi conosco. Vi accontentereste di qualunque cosa, ma io sarò un po' più difficile e sono sicura che i buoni Campbell mi daranno pienamente ragione. Con le vostre doti superiori avete il diritto di muovermi nelle più alte sfere. Basterebbe la vostra cultura musicale per darvi il diritto di imporre le vostre condizioni, di avere quante stanze desiderate e prender parte alla vita della famiglia non più di quanto vi piace. Cioè, non so, se sapeste suonare l'arpa, potreste ottenere tutto ciò, ne sono certa. Ma voi cantate oltre che suonare. Sì, io credo che potreste, anche senza l'arpa, fare i patti che credete. E dovete essere sistemate in modo delizioso, onorevole e confortevole prima che i Campbell o io ci diamo pace. Potete pure classificare insieme la delizia, l'onore e la comodità di una tal situazione, disse Jane. Si può star certi che si equivarranno. Tuttavia, io dico proprio sul serio, quando non desidero che per ora si facciano ricerche per me, Vi sono estremamente obbligata, Mrs. Elton. Sono obbligata a chiunque ha simpatia per me. Ma dico assolutamente sul serio quando desidero che nullo si faccia prima dell'estate. Per altri 2 o 3 mesi io rimarrò dove sono e come sono.